Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci qui, pronti per dare il via al soundcheck di Radio 24. Buona domenica da Gegè Telesforo, buona domenica all'immancabile comunicatore multimediale della nuova generazione, il dottor Francesco Tromba. Ciao a tutti. Eccoci Francesco, siamo pronti, siamo veramente in dirittura d'arrivo, perché praticamente dopo questa domenica ci resta un solo weekend di musica da affrontare qui su Radio 24. Evviva, poi tutti al mare. No, che tutti al mare. Intanto io continuerò a fare musica perché me ne vado in giro a fare i concerti, e poi bisogna comunque lavorare perché dobbiamo realizzare i the best del soundcheck di questa stagione, quindi faremo una sorta di collage dei momenti più belli, più importanti della musica meravigliosa che noi abbiamo presentato ai nostri appassionati di musica. Bene, mi porto il computer sotto l'ombrellone. Ah, così puoi lavorare così comodamente. Eh sì, un po' di bagni. Però io vorrei anticipare, caro Francesco, che durante il prossimo weekend arriverà il momento cruciale del Soundcheck Airplay Music Award. Sì, noi abbiamo lanciato questa iniziativa perché vogliamo in questo modo premiare gli artisti che ci hanno regalato grandissime emozioni con le loro pubblicazioni discografiche recenti, per cui tutti gli artisti che sono stati presentati nella stagione 2014-2015 sono stati sottoposti al giudizio non solo nostro ma anche del pubblico di Radio 24 e di alcuni esperti, per cui sono state tirate giù delle nominations per categorie. Sì, le categorie sono, allora, Best R&B, in cui ci sono D'Angelo and the Vanguard con Black Messiah, Kendrick Lamar con To Pimp a Butterfly, Robert Glasper Experiment, Black Radio 2, Prince, Artificial Age, Mary J. Blige con The London Session. E questa tra l'altro è una delle categorie più complicate, perché sì, sono dischi combattute perché dischi, grandissime produzioni, e tra l'altro ho notato, facendo già un piccolo calcolo, che veramente insomma se la battono. Sì, anche a me sorprende il fatto che comunque Robert Glasper sta ancora riscuotendo grandissimo successo nonostante il disco è forte, ha preso il Grammy Award, scusami, per questo disco, e anche gli appassionati italiani lo vogliono premiare. Tra l'altro arriverà, lo ripetiamo, in Italia per concerti, perché sarà presente a Umbria Jazz, perché credo sostituisca qualcuno. Sì, il 16 di luglio, se non sbaglio. 16 di luglio dovrebbe esserci Robert Glasper. Allora, però andiamo subito alla musica presentandovi un artista che si chiama Rachelle Brotman. Questa ragazza, nata è cresciuta a New Orleans, però trova l'America a Brooklyn. Sì, ma in realtà lei è cresciuta a New York, però poi è andata a studiare a New Orleans. E vedi, ma tu sei preparato, sì, sei dove... proprio un gossiparo della musica. Eh sì, ha iniziato poi lì anche a cantare, a suonare in giro nei vari locali, anche nelle varie insomma, band. Insomma, si è esibita anche in locali importanti come il Blue Note di New York, si è esibita al famoso Lincoln Center, che poi è un posto dove si ascolta grandissima musica sotto la direzione artistica di Wynton Marsalis. Eh sì, grandissimo, io infatti vorrei proprio andare lì a sentire una passeggiata a New York Tromba, invece di perdere tempo in vacanza sotto l'ombrellone. Eccola qui Rachelle Brotman, il brano si intitola Reclaver. Just from above. suono la voce di Rachel Brotman, anche lei americana, newyorkese, poi è andata a New Orleans, come ci diceva Tromba, ma è a New York che insomma sta facendo la sua carriera muovendosi nell'ambiente interessante che oggi vivono le nuove star, soprattutto i musicisti della nuova generazione, quindi muovendosi fra il contemporary R&B, l'hip hop, ma sempre con un background tipicamente jazzistico. D'altra parte si è vissuto a New Orleans, certe influenze le ha assorbite. Si sente un po' anche dal groove che c'è in questo pezzo, no? Assolutamente, e il groove non manca poi a un altro organico che per un certo periodo ha accompagnato quell'eccellente produttore americano purtroppo scomparso chiamato J. Dilla, uno dei personaggi fondamentali dell'evoluzione della black music contemporanea. È lui l'uomo che in qualche modo ha creato il percorso a D'Angelo, ma anche a Robert Glasper, un ponte fra il jazz contemporaneo e l'hip hop. Sì, è uno di cui magari non si parla molto in Italia, però ha dato un contributo sicuramente importantissimo a tutta la black music dagli anni 2000 in poi. Guarda, se tu fai un giro su YouTube e clicchi il nome di J. Dilla, ci sono non solo dei filmati che riguardano l'artista, ma anche tutta la sua produzione, ma noterai quanti musicisti della nuova generazione gli rendono tributo. Sì, perché è proprio un pezzo di storia. Un pilastro. Sì, assolutamente. Allora, J. Dilla lavorava con una band chiamata Slam Village. Tu lo sai che cos'è lo slam? Il ghetto, no? Sì. Ok, quindi Slam Village con la partecipazione di B.J., Chicago Kid e Illa, che dovrebbe essere, se non sbaglio, il fratello di J. Dilla. Esatto, Illa J., infatti. Illa J. si chiama lui. Ma questo che cos'è? Un album nuovo? Un nuovo pezzo? Sì, è un pezzo che ho trovato su SoundCloud. Ecco, figurati se non lo trovavi lì. Il brano si intitola Expressive, quindi Slam Village al soundcheck di Radio 24. So whenever come, I just paint an image of your mind, that's the weapon, don't weld your canvas, yeah, your expression, just free your mind, that's the weapon, don't weld your canvas, yeah, your expression. Yeah, I need extra help when I express myself, come on. So you should come along with your sexy self, and I can only imagine how your ex has felt. She can't keep her pants on, she need an extra belt. Bending corners in my black jeans, look at me creep, thick bitch in a blue body suit that look like mistake. Your technique's kinda unique, it's easy to slay, and it's easy to get me hard, cause your rivers is soundcheck. Il suono della musica. E in questa domenica vi stiamo proponendo delle novità assolute, anche se poi durante il prossimo weekend scopriremo i vincitori del Soundcheck Airplay Music Award. Abbiamo già citato gli artisti presenti nella categoria Black Music, ovvero Best R&B, ma abbiamo individuato anche gli artisti presenti nell'International Jazz, ovvero Didi Bridgewater con Didi's Feathers, Marcus Miller Aphrodisia, Shaina Steele con Rise, Medeski, Martin e Wood con la partecipazione di John Scofield, album molto bello intitolato Juice, e poi Pat Metheny, Unity Group, con il nuovo album intitolato Keen. Ma tutte queste cose le scopriremo la prossima settimana, nel prossimo weekend, ultimo weekend per il soundcheck di Radio 24. Come funziona il tutto? Intanto abbiamo riunito una sorta di commissione di esperti, ovvero giornalisti, musicisti, producer discografici legati al nostro soundcheck, perché comunque hanno partecipato a questa edizione del nostro programma qui su Radio 24. Vogliamo fare dei nomi? Sì, sono stati i nostri ospiti, ad esempio Carlo Mancini o Bruno Santori. Il maestro Bruno Santori, oppure critico, giornalista e carissimo amico di Repubblica, Ernesto Assante. ma anche Luigi Calivà. Luigi Calivà, producer discografico, ma anche esperto di marketing. Roberto Ramberti, editore e produttore discografico. Prince Faster. Anche. Prince Faster, un nome, una garanzia, un appassionato di musica, ma soprattutto un DJ storico della radiofonia romana. Poi il DJ e producer radiofonico Alex Paletta. Chi altro manca? Vincenzo Martorella. Martorella, anche lui è esperto, critico, giornalista di musica e direttore delle edizioni Arcana, credo. Sì, esatto. Direttore editoriale. E poi Fabio Ciminiera. Ok, sì, anche lui è esperto di jazz, nostro amico, nostro ospite in questa edizione. Quindi, tanto per raccontarvi e riepilogare che cosa succede al Soundchecker Play Music Award della prossima settimana. Intanto abbiamo ascoltato Giulia Easterlin, una esperta di campionato. Questa ragazza si è diplomata alla Berklee School of Music, credo nella classe chiamata infatti J. Dilla. Lo sai che c'è una classe dedicata alla hip hop production alla Berklee? Addirittura. E questa ragazza canta molto bene ed è molto richiesta proprio dagli artisti della nuova generazione. Questo brano si intitola Go Straight Away ed era proprio realizzato utilizzando loop machine. Sì, una loop station. Se andate a vedere anche i suoi video su YouTube, la vedrete all'opera con queste strane registrazioni. Ci vuole un pochettino prima che parta poi tutto il pezzo, 2-3 minuti. Certo. Dunque, dalla giovanissima Giulia Easterlin direi di passare a un altro personaggio che io non conosco molto bene, ma il brano non mi è dispiaciuto per niente. Si chiama Luke Temple, che è quasi il nome di un attore, quasi il nome da personaggio cinematografico. Sì, in realtà lui faceva l'artista, faceva i murales, era un writers. Poi però ha anche iniziato a suonare, faceva principalmente folk americano, e poi ha deciso di dedicarsi interamente alla musica perché comunque ha visto che ha avuto un grande ritorno e quindi è diventato un professionista. Sì, un suono molto particolare, quello da realizzato da Luke Temple per questa sua composizione dal titolo Florida. Soundcheck. Il suono della musica. Puntualissimi dopo l'informazione e un po' di pubblicità qui su Radio 24, il ritorno del soundcheck, ovvero il suono della musica, con Giorgio Telesforo e Francesco Tromba e la partecipazione di Njem Rosie. Questo è il nome di questa cantante camerunense, ma che da sempre vive in Olanda, esattamente a Rotterdam. Ascoltandola in realtà sembra proprio una americana venuta proprio dagli Stati Uniti per forza, perché ascoltando il suo sound la rintracci, la geolocalizzi in quel punto, e invece lei è del Camerun e si è trasferita in Olanda a Maastricht quando aveva 9 anni con la sua famiglia. Il brano si intitolava Forever Love e scusa, mi approfitto perché vedo che è arrivata una mail al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, dove ci chiedono ma come si fa per votare per il Soundchecker Play Music Award. Bene, se hai scritto questa mail puoi anche segnalare darci le tue preferenze, che naturalmente troverai esposte dove? Nelle nostre pagine Facebook? Sì, su Facebook e su Twitter pubblichiamo. Quindi ci sono tutte le nomination, sì. Ovvero, ricapitoliamo, quindi Best R&B sarebbe la Black Music, poi International Jazz, Alternative è una categoria strepitosa. Infatti è proprio quella in cui sono più indeciso in assoluto. Hiatus Keyote, Becca Stevens, Alan Hampton, Lauren Vula e Punch Brothers, mamma mia, musica meravigliosa. Poi c'è Best New Talent e qua mi colpisce perché sono quasi tutti inglesi a parte Jared Lawson. Sì, anche Jordan Rakei che è australiano. Ah, sì, è australiano, però pure lui. Però tutti e due stanno a Londra, anche sì. Loro, quindi Jordan Rakei, Nubian Twist, Native Dancer, Quabs, Jared Lawson, Emily Saunders per i Best New Talent. E poi abbiamo le due categorie italiane, ovvero repertorio in italiano con Domenico Imperato, Postura Libera, Gio Barbieri, Cosmonauta d'Appartamento, Tosca con il suo nuovo album Il Suono della Voce, Serena Brancale, che è la giovane artista che ha partecipato all'ultimo Sanremo con Galleggiare, titolo dell'album, che poi è il pezzo che mi piace di meno, lo voglio dire, Voci di Corridoio con Speciale per l'Elio, album swing dedicato a Lelio Luttazzi, e poi c'è il jazz italiano. Sì, con Dado Moroni e Max Ionata, Two for Stewie, omaggio a Stevie Wonder, Domenico Sanna, Brooklyn Beat con il suo trio americano, che tra l'altro recentemente è anche stato in concerto a New York, Rita Marco Tulli e Luciano Biondini con La Strada Invisibile, Rosario Bonaccorso con Viaggiando, Mauro Ottolini e i suoi Susaphonics con Musica per una società senza pensieri. Ecco, tutti artisti e album che naturalmente hanno ottenuto la nomination perché sono quelli che si sono distinti durante l'airplay di questa stagione e hanno ricevuto consensi da parte dei nostri radioascoltatori. Allora, direi una cosa, caro Francesco, di tornare a gustare il sound di questa artista, come dicevamo, camerunense, ma di base a Rotterdam, si chiama N'Jam Rosie, il brano è Dear to Me. Hold your tongue, you're saying a whole lot of nothing, come on, control yourself and hold it in. Be slow to speak and slow to anger, count to ten, come on, control yourself. It ain't worth it. Listen to me. Listen, listen, listen to me. Listen to me. Talk is cheap when it's built on sand. Take a leap of faith, take my hand. I'm talking to you. Soundcheck, il suono della musica. I won't be a coward, I will be strong. I'ma fight my joker love. I won't be waiting, it's been too long. The train has left and with my pride is moving on. Ce lo diceva proprio Renzo Arbore, la bellezza degli Stati Uniti, il fatto è che è un melting pot culturale e ci sono tutti i tipi di razze. Eh sì, è il continente in cui si sono mischiati in assoluto di più gli afrori tutti umani. Infatti soltanto a vedere il DNA, no? Ad analizzare il DNA di Arlene Gould, che qui al Soundcheck abbiamo ascoltato con Rollin, e la partecipazione di Lucille Crew, possiamo capire che cosa sono gli Stati Uniti in questo momento. Tutti sono a Brooklyn gli artisti, e questa ragazza da dove arriva? Che sangue ha? Sì, ha un misto di sangue caraibico e israeliano. Pensa. Quindi che cose strane proprio. Va bene, da Arlene Gould noi arriviamo direttamente all'ultimo brano di questa prima parte, poi ci risentiamo più tardi alle 19:15 per una seconda parte senz'altro più jazz, con la quale vi presenteremo musica nuovissima, freschissima, artisti nuovi di zecca e anche due produzioni italiane che vi vogliamo segnalare, che non saranno presenti nel nostro Soundchecker Play Music Award perché appena pubblicate, quindi non abbiamo neanche il tempo di gustarcele, però credo sia il caso di introdurvi due eccellenti musicisti italiani. Il pianista della nuova generazione Claudio Filippini ha fatto un disco bellissimo, e poi il nuovo album di Fabrizio Bosso intitolato Duke, dedicato a Duke Ellington. due album italiani da non perdere. Magari abbiamo già due ospiti per la prossima stagione. Assolutamente sì, li inviteremo tutti e due. Quindi noi ci risentiamo più tardi e vi lasciamo con l'album epico, si intitola infatti così, di Epic, di questo gigante del sax tenore della nuova generazione, Kamasi Washington, un brano dal titolo The Rhythm Changes, il suono sporco di questa super band, ma il grande cuore di questo eccellente musicista americano. Buon bagno a tutti, ci vediamo dopo. Soundcheck, il suono della musica di JJ Telesforo. Eccoci, questo è il soundcheck di Radio 24, seconda parte di questa domenica con tantissime novità che arrivano dal jazz internazionale e in modo particolare, come sempre, dagli Stati Uniti ed esattamente da Brooklyn. Brooklyn a New York sta diventando il crogiuolo, la casa, la residenza di alcuni fra i musicisti più interessanti della nuova generazione. A tutti voi buonasera da Giorgio Telesforo e buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera. Perché parlo di Brooklyn, mio caro Francesco Tromba? Perché anche da Brooklyn viene Sarah Elizabeth Charles. Sì, ha collaborato con Christian Scott in questo nuovo disco che si chiama Inner Dialogue, che è uscito a marzo di quest'anno. Mi è piaciuto tantissimo quello che ho sentito, non ho sentito ancora tutto il disco, però quei pezzi che ho ascoltato veramente sono fenomenali. Stiamo parlando di una formidabile artista, un artista molto preparato, un artista che insegna musica, suona benissimo il pianoforte, un'eccellente cantante, una compositrice e tra l'altro insegna per un programma speciale di musica ai ragazzi all'interno della Carnegie Hall. Pensa, sei mai tu stato all'interno della Carnegie Hall? Purtroppo io no. Ci sono stato una volta e quando sono salito sul palco ho baciato il palco. Addirittura ti sei fatto il segno della croce. Mi sono fatto anche il segno della croce, forse, questo non lo ricordo, però ho baciato il palco, ho fatto un bel giro, sono andato nei camerini, cioè pensare che su quel palco si sono esibiti da Horowitz a Benny Goodman, per parlare poi di John Coltrane o Bill Withers e tutti gli altri, puoi immaginare il tempio della musica negli Stati Uniti e nel mondo. Ma l'hai baciato altre volte il palco e quella è stata la prima e ultima volta? Guarda, non li bacio tutti perché per motivi igienici però tutte le volte che salgo su un palcoscenico certamente ringrazio per avere la possibilità di fare un lavoro meraviglioso e per esibirmi su palcoscenici che sono stati calcati da personaggi illustri e musicisti che stimo e che stimerò per sempre. Ma torniamo a Sarah Elizabeth Charles. Quindi dicevamo la partecipazione di Christian Scott, il brano si intitola Bells, ascoltate il suono che crea questa giovanissima artista americana ma di grandissimo talento. Unfashioned dream of what it was and what it could one day be. So much care to be free. So please come follow me and we'll step right back in. Look at me. Quanta musica nuova arriva qui al soundcheck di Radio 24, quanta musica bella riusciamo a presentarvi, è stata una bellissima stagione. Sono già un po' triste perché dovrei iniziare a fare i saluti e i ringraziamenti, ma rimanderemo il tutto al prossimo weekend che poi sarà l'ultimo per noi, caro Francesco. Sì, con i soundcheck Play Music Awards. Sì, daremo il nostro personale premio e ringraziamento agli artisti che si sono distinti in questa stagione 2014-2015 con la partecipazione di uno dei più importanti MC americani. sto scherzando, no? Perché si tratta del nostro amico Andy Luotto, che però farà Larry White. Grandissimo. Ah, quanto mi diverto quando viene Andy a fare quella cazzata, è una cosa incredibile. Eh sì, non pesa per niente fare la puntata. Allora, che stavamo ascoltando? Sara Elizabeth Charles. E sai che penso, Francesco, che forse dovremmo presentare anche White and Blue, un altro brano interessantissimo da questo album intitolato Inner Dialogue, per questa artista che noi vogliamo tenere d'occhio. La controlliamo a vista. Magari ora la contattiamo e mando un'email, vediamo se mi risponde. Però per la prossima stagione. Sì, sì. Ok, Sara Elizabeth Charles al soundcheck di Radio 24. So much that I can feel, don't know how to pick out the real from the fake. Drowning myself in a sea, fury of white. Soundcheck, il suono della musica. I'm a forgetter, I will forget you, you will not know me, you wouldn't want to. I'm a forgetter. Pianista, compositore della nuova generazione, nato a Los Angeles ma newyorkese d'adozione, Chris Bowers, uno dei talenti di riferimento oggi, in qualche modo mi ha sempre ricordato un Robert Glasper della nuova generazione. Chris Bowers ha realizzato un album, credo ormai più di un anno fa, intitolato Heroes and Misfits, e qui in questo brano intitolato Forgetter chiede la partecipazione della vocalist Julia Easterlin, che abbiamo ascoltato questa mattina perché l'abbiamo presentata come nuova artista che per fare musica utilizza i campionatori e quindi le loop machine. Questo è il soundcheck di Radio 24, molte novità oggi, poi fra pochissimo sono quasi pronto per presentare anche il nuovo disco di Fabrizio Bosso e il disco bellissimo del pianista Claudio Filippini, ma lo facciamo fra un po' dopo aver ascoltato Samuel Prater. Anche questo è un tipo interessante, polistrumentista. Eh sì, a guardarlo sembrerebbe un tipico latinoamericano, però che vive comunque negli Stati Uniti. E infatti dentro il suo sangue, dentro il suo sound c'è di tutto. Lui è in grado di suonare dal funk al latino, al jazz, all'R&B, anche hip hop. Ed è un pianista, è anche un polistrumentista, anche, suona anche la batteria. E questo nuovo progetto che ha fatto insieme a diversi collaboratori, come ad esempio ci stanno Christy Dashiell e Chris Fan, che cantano in questo pezzo. Chris Fan è un rapper, un hip hop. È veramente interessante perché ritrovi qualsiasi tipo di sound dentro questo disco. E allora lo presentiamo subito. Assolutamente. Samuel Prater, Carnival di Panama. Soundcheck, il suono della musica. We'll be right back. Ed eccolo qui, si intitola Duke, l'omaggio a Duke Ellington del nostro Fabrizio Bosso con la sua tromba in un classico del repertorio di Duke Ellington intitolato A Dominant Thing If He Ain't Got The Swing, e senz'altro Fabrizio Bosso dimostra ancora una volta di avere swing da vendere. Un album molto ben realizzato, un omaggio importante a un colosso del jazz come Duke Ellington, con la partecipazione di altre star del jazz italiano contemporaneo. Fra questi vorrei citare il pianista Julian Oliver Mazzariello, mio carissimo amico, musicista che conosco da quando aveva 16-17 anni e che oggi è diventato un colosso dietro alla tastiera e da un po' di tempo frequenta Fabrizio Bosso. Poi c'è Luca Lemanno, giovane talento del contrabbasso, e Nicola Angelucci alla batteria, che è una vera e propria garanzia. L'organico si completa con altri musicisti italiani per creare un sound molto rigoroso, molto old school, ma contemporaneo nel piglio e nell'approccio. L'unica cosa è che i brani durano un po' troppo, tranne questo 10 minuti. Sì, è vero, ma quando un musicista si deve sfogare, evidentemente i 3-4 minuti radiofonici non bastano. No, però vabbè. Infatti io in questa occasione ho preferito scegliere il brano con la durata inferiore, perché andava presentato questo disco. Sì, magari la prossima stagione vediamo di dedicargli un po' più di tempo. Ecco, allora chiudiamo invece questa appuntamento del soundcheck, perché non voglio rubare invece altro tempo a Claudio Filippini, pianista italiano rappresentativo del sound della nostra nazione nel mondo, con Luca Bulgarelli, anche lui un colosso sul contrabbasso, e Marcello Di Leonardo alla batteria. Loro fanno più o meno lo stesso tipo di operazione, cioè con questo album intitolato Squaring the Circle rivisitano brani di vari periodi del jazz, quindi dal periodo bebop alle ballad dei songwriter importanti, e anche brani contemporanei come questa composizione di John Coltrane intitolata Impressions, completamente stravolta, rivisitata ma con grandissima classe. Sì, buona cena a tutti, non c'è più tempo.